puzzo? No, dico proprio puzzare, puzzare non credo. Sentite un po' che mi è successo stamattina. Esco fuori dalla fogna per fare un bel giretto. Avevo un certo qual appetito. Dico, vado al mercato, magari trovo una bella verdura marcia, un bel pezzo di carne frolla, di quelli che buttano via. Oddio, mica sempre la buttano via. Ho visto sui banconi dei supermercati certi resti d'autopsia, certi polli stecchiti. Comunque, decido di andare dalla mia fornitrice preferita, la Pesci Vendolona. Quella bella, robusta, quadrata, due porpacci che sembrano due colonne de portico. Quatta quatta, striscio sotto al bancone. Oh, che ti vedo! Un pesciaccio, morto, con mezza lisca di fuori, puzzolente. Insomma, una meraviglia. E lei coi piedi che lo pesta e tracchete via le budella, tracchete via l'occhio, e intanto inizia a urlare: tutta roba freschissima, pescata stanotte, l'eviva, l'eviva. Ma va, stanotte, li ho visti i camion dei surgelati la settimana scorsa, questa roba l'è fresca come te, mia cara pescivendolona. E intanto mi infilo proprio sotto la sua sottana e non mi volto in alto, perché di cose brutte ne ho già viste abbastanza in vita mia. Gnaffete, afferro il pesciaccio, faccio per andarmene, e lei che fa? Inizia a urlare: oh, la sorcaccia! Sorcaccia, capito? Ah, c'hanno una delicatezza per i nomi. La sorca, la pantegana, la pongaccia, la mardona. E come se non bastasse, salta sulla sedia di colpo da schiantarla e si mette a urlare: ammazzatela, ammazzatela, che schifo! Capito? Che schifo a me! Una topolona elegante, snella, con un bel pelame color noisette. Beh, certo, non avrà la morbidezza del visone, d'accordo, è un po' più aburiffè. Ma è waterproof. Se finite nel canale col visone, fottuti. Se finite nel canale con il mio pelame, tornate su, una scrollatina e asciutti come prima. Ma dire che schifo a me, una topolona sportiva. Eh sì, perché lì sotto noi siamo proprio vaccinati contro tutto. Ok, avrà un certo odorino di chiuso, ma io faccio schifo. E lei allora, la pescivendolona? 130 kg, la maglietta di Fiorello, e poi lacche, tinture, tonaco in faccia e squame sparse per tutto il corpo, con quei due polpaccioni da centravanti e quelle ciabatte luride che tirano su tutto il guazzo da terra, e ciacchete, ciacchete, fuma e fuma e ciacchete, tossisce, sputa. Certi sputi che sembrano cotolette, che poi finiscono in testa a noi, capito? Ma sarai tu a fare schifo. E intanto i bottegai del mercato si mettono a fare la commedia. Oh, un topo, un topo, non si era mai vista da queste parti. Ma va, ma se siamo un condominio di 1,5 milioni lì sotto. E il macellaio che fa? Prende la scopa vendicatrice, mi tocca scappare e nascondermi sotto i banconi. Finalmente sono in salvo, mi rilasso un attimo. Sento una signora che dice: per forza ci sono i topi, sono attratti dalla sporcizia. Attratti? Ma che dici? Ma ce la tirate in testa voi la sporcizia? E poi che vuol dire attratti? È come dire che Hiroshima erano attratti dalla bomba atomica. E il salumiere che rincara la dose: bestiacce maledette, vivono là sotto e si ingrassano. Ieri ne ho vista una lunga così. Ma che dovete crescere soltanto voi? Ma poi tra di voi che dite? Oh, ieri ho visto la mia amica Carla, aveva nella carrozzina un bimbaccio lungo così. Ma anche noi mangiamo, cresciamo, è la natura, è normale. Dobbiamo rimanere topolini a vita? Ma forse avete visto troppo Walt Disney voi. Poi sento un bambino con la sua vocetta che fa: papà, papà, è vero che i topi ci attaccano le malattie? Siete voi che ce le attaccate le malattie e noi ve le ridiamo indietro. Ma quello che mi ha fatto salire su una rabbia, ma una rabbia, è stato uno che ha detto: li vedo sempre nel canale, nuotano nella merda. Allora lì non ci ho visto più, sono saltata sul bancone e ho cominciato a gridare. Oh! Ero così incazzata che non riuscivo a parlare. Poi mi sono ripresa e ho detto: ma il canale di merda, chi l'ha riempito, eh? Tu l'hai riempito con il tuo colone, mio caro giovanottone, e tu, mio caro bambino, con il tuo culino, e lei, signora pescivendolona, con quella parabolica di chiappona che si ritrova. E lei continuava a gridare: ammazzatela, ammazzatela, zitta, sai, l'ho fulminata, T'ho visto che lucidi i pesci con l'alcol e illustri l'occhio col vetril per farlo apparire più vispo. E in quanto a te, mio caro macellaio, una volta ti abbiamo rubato 20 polpette. Una strage giù nella fogna. 140 intossicati a morte, compreso il povero nonno che è morto tra gli spasmi. E lei, signora, con quel suo cane che si spiscetta dappertutto e lascia per strada montagne di stronzetti, che poi ci finiamo noi dentro col naso, capito? E l'ho vista con che cosa pulisce la sua formaggera. Con la Coca-Cola che finisce giù nelle fogne e le fa ribollire. E tutta quella schiuma dei vostri detersivi. E i nostri piccini, dovreste vederli a starnutire. Ipchi! Ipchi! Mamma, mamma, cos'è? Neve! Sì, neve. Altro che Walt Disney. Mi sono spiegata? La facciamo finita con questi appellativi? Pongaccia, sorcaccia, pantegana. Ma che per caso io vi chiamo lardosa, schifoso o bavoso? Insomma, da oggi in poi mi dovete chiamare signora Topa. Scusi, signora Topa, dovete dire. Siccome lei mi spaventa un po', potrebbe gentilmente allontanarsi dai miei piedi? Oppure, signora Topa, io la capisco, lei ha fame, ma sa, i nostri clienti sono un po' prevenuti contro i topi, un po', diciamocelo, razzisti. Potrebbe cortesemente tornare durante l'orario di chiusura? Le lasceremo qualcosina. Ci vuole tanto poco, basterebbe un minimo di civiltà. Perché noi, che siamo là sotto e ingoiamo la vostra merda, affinché voi possiate dire che tutto qui sopra è pulito, ci siamo stancati. Troppo comodo. Basta, ora basta. Se no si viene su tutti insieme e si requisisce ogni cosa. E si fa un macello. Capito? Un macello. Silenzio. Avevo zittito tutti. Ha ragione, dice un bambino. Non credevo alle mie orecchie. Ma in fin dei conti non è poi così brutta, dice una signora. Ha proprio un bel pelame. Ci si potrebbe fare teoricamente una bella pelliccia. E poi quel codino così grazioso. È forte, è tozza, è alternativa. Viene dal cuore pulsante dell'underground, dice un ragazzo col giubbotto di cuoio. Ho letto che sono molto solidali tra loro e hanno un grande senso della famiglia, dice un certo professore. Boh, io non ci capivo più nulla. Mi si avvicina la pescivendolona e dice: signora Topa, io la capisco. Anch'io sono vittima di una società fallocratica. Fallo che? Una società fallocratica. Una società che insegna alle donne ad avere paura della sorca, che sta anche a indicare, in senso dispregiativo, l'organo genitale femminile. Perciò venga a servirsi al mio bancone quando crede. Che ne direbbe di queste triglie quasi fresche? Ma no, dice il salumiere. Venga da me, ma che ne direbbe di una bella mortadella di Modena al bacio? Si permette, dice il macellaio. Vorrei rimediare quell'increscioso incidente dei porpette guaste con sto bel pezzo di filetto degno de su grasso e de su gusto. Incredibile. E infatti non è vero, è una bugia, un sogno. Un sogno che faccio sempre occhi aperti, che è quello di essere trattati per una volta nella vita con la dignità che ci meritiamo, anche noi, che siamo lì, giù nelle fogne. Puzzo. Ma puzzerete voi. Fate come vi pare e chiamatemi come volete. Ma ricordatevi, un giorno si scoprono i tombini, si levano le sorche. 600 miliardi siamo. Capito la cifra? Cazzi vostri. 600 miliardi di code ritte come baionette. Sentirete un rumorino alla porta. Caro, ci deve essere un topo là fuori. Vai a ammazzarlo con la scopa, presto. Aprirete la porta. Un esercito, chilometri e chilometri di sorche. Puzzo? Ma quale puzzo? Io profumo.